Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci come vuoi. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. È arrivato il momento di parlare di noi genitori e dei nostri figli. Prima però di salutare Alberto Pellai, che già che ci sono lo saluto a metà. Alberto. Ciao Nicoletta, ti devo dare un saluto a metà. A metà, perché volevo ringraziare e salutare Giacomo Spunta in regia alla parte tecnica e Gigi Borghi in redazione. Alberto, come sempre noi siamo qui in attesa delle telefonate, degli spunti dei nostri ascoltatori, ma sono loro in realtà che ci aiutano a condurre la puntata, gli autori di questi nostri incontri. Infatti oggi dedichiamo la trasmissione a un tema molto importante, lo abbiamo sfiorato più volte all'interno di Questa casa non è un albergo, anche tu a Essere Benessere lo hai spesso raccontato, non è mai stato il protagonista assoluto di un'intera puntata e oggi lo facciamo perché un papà ci ha scritto, ci ha mandato una mail, ci ha ispirato questo programma. Cominciamo proprio con l'ascoltare il suo messaggio. Sono il babbo di Tommaso, un ragazzino di 12 anni che è autistico. Le chiedo di fare una trasmissione che non parli delle ultime scoperte scientifiche sull'autismo, di quella o questa storia, ma parli delle famiglie. Ci racconti com'è possibile avere una vita normale, andare in vacanza con i nostri ragazzi e vivere una vita di grande soddisfazione per i loro piccoli, ma costanti progressi. Ci racconti di quanto sia più semplice dichiarare subito una disabilità, che spesso non si nota, piuttosto che subire gli sguardi interrogativi della gente. Ci aiuti a fare sì che, oltre a tutte le malattie più strane del mondo, esiste anche l'autismo. Ci dica che spesso ci sediamo vicino a una persona autistica sul tram o sul treno e pensiamo: che maleducato. Se ti avessi educato io. Insomma, lo urli al mondo che ci siamo anche noi, e siamo tanti, fratelli, nonni, zii e amici, che stanno soffrendo in modo silenzioso. Ci conto davvero, la vostra radio non mi ha mai deluso. La lettera è firmata da Enrico Fantaguzzi, il papà di Tommaso, che è in linea con noi. Buongiorno, Enrico. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Enrico, grazie per questa lettera. Intanto io ricordo anche il nostro numero verde 824 0024, un invito che rivolgo naturalmente ai genitori da casa se volessero intervenire e raccontare la loro esperienza. Tra l'altro Enrico, lei è presidente di Rimini Autismo, Onlus, è un'associazione di genitori di bambini, figli di persone autistiche che vuole proprio sostenere le famiglie. Sì, noi siamo partiti proprio con questo obiettivo, non ci occupiamo della parte clinica in nessuna maniera, ma ci occupiamo di dare un sostegno, un aiuto alle famiglie, ai familiari, a tutti coloro che sono legati comunque a una persona autistica. Enrico, anche noi oggi vogliamo dare una mano, e lei che cosa si aspetta, che cosa vorrebbe che capitasse alla fine di questi 45 minuti di trasmissione? Che cosa si augura? Mi piacerebbe tanto che anche solo una famiglia che magari ha delle grosse difficoltà potesse così parlare in maniera diversa alle persone con cui si interfaccia tutti i giorni e potesse presentare il suo caro autistico in maniera diversa, visto da un punto di vista differente. Allora, per aiutarla, Alberto, per aiutare il papà di Tommaso e per aiutarci tutti, Alberto, abbiamo in linea con noi e qua in studio con noi due esperti, due ospiti che ci daranno veramente una mano. Sì, in linea abbiamo il dottor Paolo Cornaglia Ferraris, medico molto noto, che tra le altre cose ha scritto e studiato a lungo anche sul tema dell'autismo. È autore di un libro per noi molto importante oggi, si intitola Io sento diverso, cosa pensa un bambino di 10 anni con sindrome di Asperger. Buongiorno dottor Cornaglia Ferraris. Buongiorno. Lei oggi ci aiuterà anche proprio da tecnico a entrare nella mente di un soggetto autistico, di un bambino e poi di un adolescente autistico. Ci aiuterà a capire cosa c'è di particolare, di unico e di speciale nella mente di un soggetto autistico. Ce la faremo? Sì, ma ci proveremo. È molto complicato, ci proviamo. Secondo me, insomma, faremo dei passi avanti. Ma in studio con noi abbiamo la signora Fabrizia Bugini, che tra l'altro ha appena curato un volume pubblicato da Erickson dal titolo Uno di loro. Signora, benvenuta. Grazie per essere con noi. Siamo pronti. Grazie a voi per l'interesse e per l'argomento. Allora, io inizierei dal dottor Cornaglia Ferraris. Io sento diverso. Provi, come ci ha invitato, ci ha anticipato Alberto, a farci entrare un po' nella mente di un figlio autistico. Che cosa significa il suo sentirsi diverso? Siamo a tavola, ci sono tanti parenti, c'è un po' di festa, tutti chiacchierano tra di loro. I bicchieri, le posate sbattono, c'è quel rumore di fondo che è tipico delle tavolate, il bambino si alza e va via. È strano? È bizzarro? È matto? No, ha soltanto una impossibilità di filtrare le voci e i rumori in modo tale che non gli entrino in testa, creandogli una stimolazione così forte, così disturbante, che lo obbligano ad andare via, a isolarsi, oppure a stimolare un altro organo di senso, come per esempio quello dell'equilibrio, per attenuare questi stimoli così forti. Allora si mette a dondolare la testa e sembra ancora più strano di prima. Quindi perché sente diverso? Perché il suo sistema, la centralina che riceve suoni, immagini, sensazioni tattili, posizione del corpo nello spazio, funziona in maniera tale da non consentirgli di filtrare uno stimolo alla volta e di attenuarlo se è il caso. Sì. Per esempio, durante la conversazione tra 4 o 5 persone in cui ognuno chiacchiera delle sue cose insieme all'altro, lui non riesce a fare fuoco su una sola conversazione, ma le sente tutte e 4, tutte e 5, creandosi in testa una confusione terribile. Adesso noi dobbiamo fermarci perché dobbiamo andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Naturalmente sentiremo Enrico Fantaguzzi. Enrico, si ritrova nella descrizione del dottor Cornaglia Ferraris? Ma certo, certo. Questo è l'esempio classico, la confusione, l'ambiente caotico che magari noi non consideriamo caotico. E invece lo è per loro. È un disastro. Che certo. Sentono diverso. Non vuoi sentire nessun'altra domanda? No. Non preoccuparti, non ci saranno più altre domande, va bene? Sì. Niente più domande, ci penso io, d'accordo sì, lei? Migliore amico. Cosa? Mio migliore amico. Senti, Ray, non so se avrò la possibilità di parlarti ancora. Vedi, questi signori... Il dottor Brunner ti è molto affezionato e probabilmente vorrà riportarti indietro con sé. Lo sai? Sì. Ray, ricordati sempre quello che ho detto riguardo al nostro viaggio insieme. Io lo penso. Siamo legati. Sono felice di avere un fratello come te. Sono un ottimo guidatore. Sì, lo sei. Lo avrete riconosciuto tutti, era lo straordinario Dustin Hoffman, ve lo ricordate, protagonista di Rayman, un uomo affetto da una sindrome che si chiama sindrome di Asperger. Ma vedo già che la nostra ospite, la signora Bugini, mi fa un segno come così e così. Vogliamo parlare anche della sindrome di Asperger, che è una diagnosi particolare all'interno dello spettro autistico. Signora. La sindrome di Asperger è un disturbo e, come dice la parola sindrome, è un insieme di tratti che descrivono una situazione, non è una vera malattia, si colloca all'interno dello spettro autistico, ne rappresenta la parte, diciamo, più alta, più funzionante, perché si accompagna ai disturbi relazionali che sono tipici dell'autismo e anche ai problemi sensoriali di cui ha parlato Cornaglia Ferraris, un alto livello cognitivo che anzi di solito spesso è anche superiore alla media. E quindi il nostro Dustin Hoffman in persona un po' di più una persona con autismo, con un funzionamento abbastanza alto, sì. Però la sindrome di Asperger è così riconoscibile nei sì. tratti, spesso noi abbiamo intorno persone che ne sono affette e non lo sappiamo, quindi si confondono quando diventano adulti si confondono così tanto con gli altri che è anche difficile distinguerli, se non per alcune caratteristiche come la difficoltà proprio di stare nella conversazione, di interagire in modo efficace con gli altri, di avere una buona gestualità. Oppure altri problemi che sono, rimangono quelli sensoriali di eccessiva sensibilità a diversi stimoli, la difficoltà, le faccio un esempio, la difficoltà di percepire insieme ciò che viene dalla vista e dall'udito. Riporto un episodio che mi riguarda personalmente. Mio figlio, quando aveva sui 15 anni, adesso un giorno mi ha fatto 25. Un giorno mi ha fatto un'osservazione di questo genere, io lo guardavo, gli parlavo facendogli un discorso piuttosto impegnativo sulla sua situazione scolastica, eccetera, e lui guardava altrove e io gli ho fatto osservare che io gli volevo bene, potevo anche sopportarla una cosa così, però nessun altro avrebbe sopportato che lui guardasse altrove. Lui mi ha detto: io o ti guardo o ti ascolto, scegli tu, tutte e due le cose insieme non sono capace di farle. In questo momento, in quel momento mi si è illuminata una lampadina. E io la ringrazio perché ha illuminato anche noi. Un suo modo villano di interagire, come spesso viene invece interpretato. Cioè, quindi c'era da parte sua la difficoltà, non avendo una diagnosi, ovviamente bisognava solo attenersi ai segnali che lui mandava. C'erano diverse modalità in cui lui esprimeva queste... E infatti Enrico Maria Fantaguzzi, proprio nella lettera che ci aveva mandato, diceva può sedersi accanto a noi, Enrico Maria, in un tram, e chi non sa di avere di fianco una persona affetta da sindrome di autismo, possiamo usare questo termine, può chiedersi: ma che maleducato è? Proprio perché hanno un modo di relazionarsi alla realtà diverso, signor Fantaguzzi. Ma sì, è una questione proprio di cambiare modo di valutare la persona che hai di fianco. Purtroppo tutti quanti noi siamo abituati a valutarlo con determinati schemi sociali e questo ci porta a dare anche dei giudizi molto rapidi. Perché? Perché l'autismo in definitiva è proprio una sindrome invisibile. Voglio dire, non che ha faccia. Non ha faccia, perché se io incontro una persona con una disabilità apparente, non so, una persona che ha un problema di mobilità su una carrozzina, che deve superare un ostacolo, mi ci tuffo ad aiutarlo, faccio qualunque cosa per aiutarlo. Se vedo un genitore con un bambino autistico steso per terra che urla, dico appunto: se l'avessi educato io, guarda che maleducato. Purtroppo, e questo è una grossa difficoltà di tutte le famiglie che devono affrontare la società con il loro bambino, ed è un problema grosso questo. Io ribadisco che secondo me per quello che succederà nella società del futuro, far fare ai nostri bambini normodotati un'esperienza di amicizia, di gioco, di avventura con una persona autistica potrebbe essere un'esperienza talmente importante per il suo futuro che non ha pari con nessun'altra esperienza. Io devo dire che di esperienza personale, la mia bambina, la mia figlia, quando era nelle elementari, aveva in classe un bambino con una forma di autismo, e devo dire che a distanza di tempo è stato ben inserito e la classe si è relazionata bene. Per loro era un bambino assolutamente affascinante, perché li portava forse in una dimensione che loro non conoscevano. E devo dire che a distanza di tempo io mi accorgo che Carolina ha da questa esperienza ha ricevuto una marcia in più, e trovo che quindi l'ho vissuto io come mamma. Io vorrei, Alberto, volevo chiedere al dottor Cornaglia Ferraris, un po' dal suo osservatorio di esperto del tema, che preparazione c'è a livello scolastico? Io credo che quello sia proprio il momento d'impatto, sia per il bambino che ha la diagnosi, sia proprio per i processi di socializzazione che per lui sono così complessi. Che formazione specifica c'è, che competenza c'è nella scuola italiana per far sì che la crescita di un soggetto che ha una diagnosi all'interno dello spettro autistico sia il più funzionale possibile per lui e per chi gli vive di fianco? Guardi, la competenza esiste ed è anche di buona qualità, ma è molto poco distribuita, perché è molto più frequente che a causa di graduatorie sindacalizzate più o meno rigide, i sostegni siano di fatto affidati a persone che non hanno alcuna qualificazione, che non sanno nulla dell'autismo, come se uno entrando in ospedale, non so, passasse per un problema di orecchio, naso, gola, fosse dal cardiologo perché uno vale l'altro, insomma, tanto sono tutti medici, e così questo è il problema da superare. Devo dire che la scuola è l'unico posto in cui le famiglie hanno un minimo di supporto, perché i servizi sanitari e sociali, fatta la diagnosi, è impostato un percorso così più o meno teorico, di fatto non interagiscono bene con le scuole e non fanno un'abilitazione seria e duratura. Per esempio la stessa logopedia, pochi minuti, due o tre volte alla settimana, insomma è troppo poco, per cui c'è bisogno di fare rete attorno a un ragazzo con un problema autistico tra scuola e sanità e sociale, e soltanto una rete funziona in cui veramente ci si mette a fabbricare un vestito su misura che col tempo va rinnovato, perché siccome questi crescono, così come cambiamo le scarpe, le giacche, le felpe, le mutande, dobbiamo anche cambiare il piano educativo. Ha detto una cosa fondamentale. Io andrei a sentire Davide, ci chiama da Pordenone, 824 0024, così adesso facciamo partire gli interventi dei nostri ascoltatori. Li abbiamo fatti attendere, ma avevamo bisogno un pochino di definire un po' i punti della situazione. Davide, buongiorno e benvenuto, grazie. Buongiorno a voi. Allora, io mi presento brevissimamente, sono il direttore della Fondazione Bambini Autismo di Pordenone. Sì. E sono anche un papà. Sì. Intervengo non per parlare evidentemente della nostra struttura, ma specificatamente sul tema della trasmissione, che mi pare essere quello del rapporto della famiglia con la persona con autismo, dei genitori con la famiglia. Allora, la nostra fondazione ha realizzato una rete di servizi specifici per le persone con autismo. È naturalmente un modello che noi speriamo sarà in futuro esportato anche in altre parti d'Italia. Che cosa ha di particolare questo modello? Come aiutate le famiglie? Così potete confrontarvi anche con Enrico Maria Fantaguzzi. Sì, la nostra fondazione ha realizzato tutta una serie di centri che possano seguire la persona con autismo in tutte le sue tappe, dall'infanzia all'età adulta. Ma praticamente cosa vuol dire, mi scusi? Vuol dire che c'è un centro per fare la diagnosi precoce, ci sono dei centri riabilitativi. E le famiglie come vengono aiutate? Quindi... Esatto, arriviamo al punto, al focus della trasmissione. Allora, per esempio... stia lì però, prego, arriviamo a questo tra poco. Come vengono aiutate le famiglie? Adesso andiamo a sentire il nostro GR, diamo voce alle famiglie, alle difficoltà, alle speranze, alle fatiche, alle soddisfazioni. Enrico Maria Fantaguzzi, parlando con noi al telefono, ci ha raccontato delle cose belle, toccanti. Questa casa non è un albergo. Vivere con un figlio autistico, questo è il tema di oggi. Vogliamo entrare nelle famiglie. Abbiamo in linea con noi Davide da Pordenone, poi abbiamo Paolo da Milano, i nostri ospiti, ma prima è arrivato il momento del nostro consiglio di lettura. L'adolescenza vista dall'adolescente. Se volete ricevere a casa questo libro dovete essere molto veloci, mandare un'email a esserebenessere@radio24.it in cui scriverete il titolo del libro, i recapiti e il vostro numero di telefono. In collaborazione con ibs.it. Davide, eccoci a noi. Davide da Pordenone, papà di un ragazzino con una forma di autismo, dirige anche una fondazione che aiuta le famiglie. Davide, entriamo un po' in famiglia. Lei dice che appunto supportate le famiglie, in che modo? Ecco, due cose molto concrete. La prima è fare della formazione alle famiglie, perché naturalmente una famiglia, dei genitori, quando aspettano un bambino lo aspettano sano e fanno dei progetti su di lui. Sì. Poi gli arriva un bambino con autismo e sono assolutamente spiazzati. E il buon senso da solo non basta, bisogna sapere alcune cose. Sono già state dette in trasmissione. Sì. Per esempio. Davide, abbiamo pochissimo tempo. La seconda cosa che fate con le famiglie? La seconda cosa è una cosa molto concreta. Per esempio, oggi mio figlio fa il weekend in villa. Quanti anni ha suo figlio, Davide? 15. Quindi in un'età molto particolare, il passaggio tra la fase dell'infanzia e quella dell'adolescenza. Sì. Davide, quindi questa è anche un'esperienza, il ragazzino, 15 anni, un weekend in villa. A proposito di adolescenza, chiediamo a Fabrizia Bugini, che ha proprio curato Uno di noi, ed è un testo per raccontare le sfide educative ed evolutive che tutti normalmente abbiamo quando diventiamo adolescenti. Quali sono le più importanti per un soggetto che ha una diagnosi di autismo? Io parlo con maggior cognizione della sindrome di Asperger, come sapete. Comunque il passaggio all'adolescenza è molto difficile, perché se un bambino durante l'infanzia si è un po' crogiolato nella propria solitudine e nei propri interessi particolari, che sono un altro aspetto della sindrome di Asperger in particolare, e stava bene da solo, cercava proprio anche il soddisfacimento di tutte le sue esigenze affettive, veniva da questi suoi interessi, quando arriva nell'adolescenza non può non sentire, come tutti gli altri, la spinta ad entrare nel gruppo, a entrare nella società. Lui si riconosce come uno degli altri, però non è capace di entrare nel gruppo. Forse non ha, come si dice, i fondamentali, perché non ha fatto palestra quando era ragazzino, quando era piccolo. Certo, da una parte non ce li ha per un problema suo neurologico, cioè non dimentichiamo di dire che questo è un problema che nasce probabilmente da una situazione neurologica, quindi ci distacchiamo un po' dall'interpretazione psicoanalitica che veniva data dell'autismo fino a qualche anno fa, e per cui l'autismo era causato da agenti esterni, da stress emotivi, eccetera. Questo è proprio scientificamente definito, che non esiste più. Però purtroppo ci sono alcune università italiane dove ancora questa cosa viene insegnata. Posso credere. E purtroppo sì. Quindi l'adolescenza è un periodo particolare. L'adolescenza diventa un periodo particolare, perché il ragazzo non è capace di rapportarsi agli altri, e tra l'altro gli mancano anche alcuni elementi fondamentali. Lui ha un particolare stile cognitivo che lo porta ad apprendere in modo personale tutto quello che viene dall'esterno, non ad omologarsi. Lui ha difficoltà ad omologarsi, e in un gruppo di adolescenti questo è un brutto difetto. Certo. In questo senso diventa fondamentale educare la classe, cioè educare il gruppo nel quale il ragazzo si trova. Educare la classe, educare anche le famiglie, come diceva il nostro ascoltatore. Sì, andrei a sentire anche Enrico Maria Fantaguzzi, che è stato un po' il promotore, il suggeritore di questa nostra trasmissione, anche lui come padre. Tommaso, adesso Enrico Maria ha 12 anni. Quindi si sta affacciando all'età dell'avventura. Per questa avventura Tommaso ha iniziato quest'anno a fare la prima media, perché è indietro di un anno, e devo dire la verità che secondo me conta molto come la famiglia propone a questo ingresso. Io credo molto che se la famiglia è capace di, cosa vuol dire capace, Enrico? Vuol dire che non deve tendere a nascondere, non può nascondere la disabilità. La disabilità c'è, è un problema che ha Tommaso, ma è anche una grande occasione per tutti coloro che gli stanno intorno. Quindi deve essere capace di proporre questa situazione. Cioè, certo, Tommaso ha bisogno dell'aiuto di tutti i suoi compagni, ha bisogno dell'aiuto dell'insegnante di sostegno, come dell'insegnante di nuoto, ha bisogno dell'aiuto di tutti, ma il rapporto con Tommaso è un rapporto estremamente avvincente, che arricchisce, e che permette una crescita personale enorme. Quindi se le famiglie sono consce di questa cosa, secondo me si possono anche avere una stima, un modo di proporsi completamente diverso. Andiamo a sentire Paolo, ci chiama da Milano. Paolo, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Paolo, siamo quasi in chiusura. Sì, ci racconti. Velocissima, una domanda che forse torna un po' indietro, perché adesso siamo ormai all'adolescenza, però sì, si ricollega al problema dell'inserimento nella scuola, sì, che sicuramente è la cosa più positiva, come in tutte le disabilità. La mia domanda è questa: vista il meccanismo patogenetico della malattia, cioè questo bambino non riesce a filtrare i rumori e le conversazioni, mi domandavo, siccome ho un bambino a scuola e a giorni verrà inserito un bambino autistico, sì, e la scuola è una scuola materna, quindi sì, hanno 4-5 anni, sì, non è troppo presto, nel senso che lui non potrebbe avere addirittura un danno da questo, nel senso lui che chi, scusi, suo figlio, la classe, il bambino autistico okay, che viene inserito, grazie, perché mi immagino che una scuola materna sia molto rumorosa. Grazie Paolo. Io vorrei, Alberto, dottor Cornaglia Ferraris, una battuta per rispondere al nostro ascoltatore prima di salutarci. La relazione con i coetanei è la sfida che bisogna vincere per fare di un autistico una persona meno infelice, meno sola e meno asociale, per cui bisogna inserirli presto. La scuola deve dotarsi di momenti di silenzio, di momenti di si possono fare dei giochi, insomma si può tenere conto delle sensibilità di ciascuno. Bisogna sicuramente insegnare ad accogliere la diversità, accogliere il diverso è la sfida di domani. Grazie dottor Cornaglia Ferraris. Se volete contattare l'associazione di Fabrizia Bugini o di Enrico Maria Fantaguzzi o altre, che tra le altre cose avrà un convegno molto importante a gennaio, scrivete a essereebenessere@radio24.it, gireremo tutte le vostre mail ai nostri ospiti di oggi. Grazie, buona giornata, un saluto da Nicoletta Carbone ed Alberto Pellai. We'll be right back.